mia sinergia in una valle di sangue. Cercano di modificare il tuo ego tripping in una valle di nulla per sempre. Vorrebbero vederti nulla, siero di capacità mentale, loro a curare. Sono la distruzione, tuo aspetto esteriore, perché di questo sono geloso, non hanno un altare. Vivi bastardi. Pochi sangue di molti, artisti portati allo sconvolgimento, sconvolti. Sono distruttori di sogni, incontri in sogni e ti travolgono e distruggono tutto. Come una pietra filosofale data in testa, trovata dentro l'ego di chi doveva essere, basta, voleva solo distruggerti. I tuoi incubi, sogni che ti portavi in testa. Armonia, sinergia in una valle di sangue. Cercano di modificare il tuo ego tripping in una valle di nulla per sempre. Vorrebbero vederti nulla, siero di capacità mentale, curare. Sono la distruzione del tuo aspetto esteriore, perché di questo sono geloso, non hanno un altare. Vivi bastardi.